الصلوات والسلام عليك يا رسول الله. Le benedizioni e la pace su te, o apostolo di Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya habib Allah. Le benedizioni e la pace su te, o caro ad Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya khalil Allah. Le benedizioni e la pace su te, o amico intimo di Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya nabiy Allah. Le benedizioni e la pace su te, o profeta di Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya safiy Allah. Le benedizioni e la pace su te, o puro di Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya khayra khalqillah. Le benedizioni e la pace su te, o migliore realtà della creazione di Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya man ikhtarahu Allah. Le benedizioni e la pace su te, o chi lo scelse Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya man arsalahu Allah. Le benedizioni e la pace su te, o chi lo inviò Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya man zayyanahu Allah. Le benedizioni e la pace su te, o chi lo fece bello Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya man sharrafahu Allah. Le benedizioni e la pace su te, o chi lo onorò Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya man karramahu Allah. Le benedizioni e la pace su te, o chi esaltò Allah. As-salawatu was-salamu alayka man azzamahu Allah. Le benedizioni e la pace su te, o chi lo rese sublime Allah. As-salawatu was-salamu alayka ya sayyid al-mursalin. Le benedizioni e la pace su te, o principe degli inviati. As-salawatu was-salamu alayka ya imam al-muttaqin. Le benedizioni e la pace su te, o imam dei timorati. As-salawatu was-salamu alayka ya khatiman nabiyyin. La benedizione e la pace su te, o sigillo dei profeti. As-salawatu was-salamu alayka ya shafi' al-mudhnibin. La benedizione e la pace su te, o intercessore per i peccatori. As-salawatu was-salamu alayka ya rasula rabbil alamin. La benedizione e la pace su te, o apostolo del Signore degli universi. Salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi. La benedizione di Allah l'Altissimo, dei suoi angeli, dei suoi profeti. Wa rusulihi wa hamalatil arshi wa jami'i khalqihi. Dei suoi apostoli, degli angeli portatori del suo trono, di tutto il suo creato. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Abbiano per destinatario Muhammad, la nostra guida, la famiglia di lui, i suoi compagni. Alayhi wa alayhi musallamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Scendano su lui e loro la pace e la misericordia di Allah e le sue benedizioni.